Quali effetti personali miscellanei di vestiario intimo femminile furono da lui scorti? Un paio di calze da signora, nuove, in odore, mezza seta nere. Un paio di giarrettiere nuove violette. Un paio di mutande da signora, misura extra grande, di mussolina indiana di taglio abbondante, aulenti di Opoponax, gelsomino e sigarette turche Muratti, e contenente un lungo spillo di sicurezza di acciaio lucente, curvilineo e chiuso. Una camicetta di batista con sottile orlo di trine, una sottoveste fisarmonica di moirette di seta azzurra, tutti codesti oggetti trovandosi disposti irregolarmente sopra un baule rettangolare, a quadruplici rinforzi con salva spigoli, etichette multicolori e sul davanti in lettere bianche le iniziali BCT, Brian Cooper Tweedy. Quali oggetti impersonali furono scorti? Una seggetta con una gamba rotta, totalmente ricoperta da un quadrato di cretonne a motivi di mele, su cui era posato un cappello di paglia nero da signora. Un complesso da toilette filettato con greca arancione, comprato da Harry Price, panieraio, articoli di fantasia, chincaglierie e ferramenta 21, 22, 23 Moore Street, disposto irregolarmente sul lavandino e sul pavimento, e consistente in una bacinella, piattino del sapone, vassoio per le spazzole, sul lavandino insieme, brocca e recipiente notturno, sul pavimento separati. Gli atti di Bloom depositò su una sedia gli effetti di vestiario. Si tolse i rimanenti effetti di vestiario. Levò di sotto al capezzale a capo del letto una lunga camicia da notte bianca ripiegata. Inserì la testa e le braccia nelle apposite aperture della camicia da notte. Spostò un guanciale dal capo ai piedi del letto. Preparò le coltri in conformità ed entrò nel letto. Come? Con circospezione, come invariabilmente faceva entrando in un domicilio suo o non suo. Con precauzione, essendo vecchie le molle a spirale serpentina del materasso e liberi e tremuli a ogni minima pressione gli anelli di ottone e i penduli raggi serpentini. Prudentemente, come se entrasse in una tana o in un'imboscata di lussuria e di aspidi. Lievemente per disturbare meno. Reverentemente nel letto del concepimento e della nascita, della consumazione del matrimonio e della sua violazione, del sonno e della morte. Che cosa incontrarono le sue membra gradualmente distese? Biancheria da letto nuova, pulita, odori supplementari, la presenza di un corpo umano femminile di lei, l'impronta di un corpo umano maschile non di lui, qualche briciola, qualche grumo di pasta di carne cotta una seconda volta, che egli rimosse. Se avesse sorriso, perché avrebbe sorriso? A riflettere che ciascuno, entrando, immagina di essere il primo a entrare, laddove egli è sempre l'ultimo termine di una serie precedente, anche se il primo termine di una successiva, immaginando ciascuno di essere lui il primo, l'ultimo, l'unico e il solo, laddove non è né il primo né l'ultimo né l'unico né il solo. In una serie che ha origine e si riproduce all'infinito. Quale serie precedente? Supponendo che Mulvey fosse il primo elemento della sua serie, Penrose, Bartell d'Arcy, il professor Goodwin, Julius Mastiansky, John Henry Menton, padre Bernard Corrigan, un agricoltore al concorso ippico della Società Reale di Dublino, Maggot O'Reilly, Matthew Dillon, Valentine Black Dillon, sindaco di Dublino, Christopher Callinan, Lenehan, un suonatore d'organetto italiano, un signore sconosciuto al teatro Gaiety, Benjamin Dollar, Simon Dedalus, Andrew Pisser Burke, Joseph Cuff, Winston Haley, l'assessore municipale John Hooper, il dottor Francis Brady, padre Sebastian di Monte Argus, un lustrascarpe alla posta centrale, Hugh E. Blazes Boylan, e così ciascuno di seguito senza fine. Quali erano le sue riflessioni riguardo all'ultimo membro di questa serie e ultimo occupante del letto? Riflessioni sul suo vigore, un farfallone. Le sue proporzioni fisiche, un attacchino. La sua abilità commerciale, un fumista. La sua impressionabilità, un fanfarone. Perché l'osservatore rilevava l'impressionabilità oltre al vigore, le proporzioni e l'abilità commerciale? Perché aveva osservato con crescente frequenza nei membri precedenti della stessa serie la stessa concupiscenza, infiammabilmente trasmessa, prima con apprensione, indi con comprensione, indi con desiderio, infine con fatica, con sintomi alterni di comprensione e apprensione epicene. Da quali sentimenti antagonistici erano influenzate le sue riflessioni susseguenti? Invidia, gelosia, abnegazione, equanimità. Invidia? Di un organismo maschile fisico e mentale particolarmente atto alla positura superincombente dell'energica copulazione umana e al movimento energico di pistone e cilindro necessario per la completa soddisfazione di una costante ma non acuta concupiscenza insita in un organismo femminile, fisico e mentale, passivo ma non ottuso. Gelosia? Perché una natura solida e volatile allo stato libero era alternativamente agente e reagente di attrazione. Perché l'azione tra agenti e reagenti variava a ogni istante, in proporzione inversa di aumento e diminuzione, in incessante estensione circolare e reingresso radiale. Perché la contemplazione controllata del fluttuare dell'attrazione produceva, volendo, una fluttuazione di piacere. Abnegazione? In virtù di A. Relazione iniziata nel settembre 1903 nei locali di George Mesias, Sartre e Camicciaio, 5 Riva Eden. B. Ospitalità offerta e ricevuta in natura, partecipata e ricambiata in persona. C. Relativa giovinezza, soggetta agli impulsi dell'ambizione e della magnanimità, dell'altruismo di colleganza e dell'egoismo amoroso. D. Attrazione extrarazziale, inibizione intrarazziale. Prerogativa soprarazziale e un'imminente tournée musicale in provincia, spese correnti in comune e suddivisione dei profitti netti. Equanimità? In quanto naturale, come ogni qualsiasi azione naturale di una natura che si esprime o si fa capire, eseguita nella natura connaturata di creature naturali, in conformità con la natura connaturata di lui, di lei, di loro, di una simiglianza dissimile. In quanto non altrettanto calamitosa che un annichilimento cataclismico del pianeta in conseguenza di una collisione con un sole eclissato. In quanto meno reprensibile del furto, della grassazione su strada maestra, della crudeltà verso bambini e animali, dell'ottenere denaro con prestiti, del falso, della malversazione, dell'appropriazione indebita di denaro pubblico, dell'abuso di fiducia. Della simulazione di malattia, delle mutilazioni volontarie, della corruzione di minorenni, della diffamazione, del ricatto, dell'oltraggio alla corte, dell'incendio doloso, del tradimento, del delitto aggravato, dell'ammutinamento in alto mare, della violazione di proprietà, del furto con scasso, dell'evasione dal carcere, della pratica di vizi contro natura, della diserzione dalle forze armate sul campo, del falso giuramento. Della caccia di frodo, dell'usura, dell'intesa col nemico, del falso in atto pubblico, dell'aggressione a mano armata, dell'omicidio preterintenzionale o colposo, dell'omicidio premeditato, in quanto non più anormale di ogni altro processo alterato di adattamento a condizioni alterate di esistenza, risultanti in un equilibrio reciproco tra l'organismo fisico e le circostanze concomitanti, quali il cibo, le bevande, le abitudini acquisite, le tendenze cui si indulge, le malattie tipiche, in quanto più che inevitabile, irreparabile. Perché più abnegazione che gelosia, meno invidia che equanimità? Da oltraggio, matrimonio, a oltraggio, adulterio, non nasceva altro che oltraggio, copulazione. Eppure il violatore matrimoniale della matrimonialmente violata non era stato oltraggiato dal violatore adultero dell'adulterinamente violata. Quale punizione se una venera? L'assassinio? Mai. Poiché da due mali non nacque mai un bene. Duello ad armi bianche o meno? No. Divorzio? Non ora. Dimostrata flagranza con un artificio meccanico, letto automatico, o testimonianza individuale, testi oculare nascosto? Non ancora. Azione per danni per via legale o simulazione di violenza subita con prove di sevizie personali, autoinflitte, non impossibile. Tacitazione per influenza morale, possibile. Nel caso di effettiva connivenza, Introduzione di spirito di concorrenza. Materiale, una prospera agenzia rivale di pubblicità. Morale, un fortunato agente rivale di intimità. E quindi svalorizzazione, alienazione, umiliazione, la separazione proteggendo l'una delle parti separate dall'altra, proteggendo il separatore da ambedue. Con quali riflessioni egli, reattore cosciente contro il vuoto dell'incertezza, giustificava a se stesso i propri sentimenti? La frangibilità preordinata dell'imene, l'intangibilità presupposta della cosa in sé. L'incongruenza e la sproporzione fra la tensione autoprolungata della cosa da fare e il rilassamento autoabbreviantesi della cosa fatta. La debolezza fallacemente inferita della femmina, la muscolosità del maschio. Le variazioni dei codici etici. La transizione grammaticale naturale per inversione non implicante nessuna alterazione di significato. Di una proposizione con aoristo preterito, analisi logica, soggetto maschile, verbo transitivo monosillabico onomatopeico con complemento diretto femminile, dalla voce attiva, nella proposizione corrispondente con aoristo preterito, analisi logica, soggetto femminile, verbo ausiliare e participio passato quasi monosillabico onomatopeico con complemento d'agente maschile, alla voce passiva. Il prodotto continuato di seminatori per generazione, la produzione continua del seme per distillazione, la futilità di trionfi o proteste o rivendicazioni, l'inanità della virtù tanto vantata, la letargia della materia inscente, l'apatia delle stelle. In quale soddisfazione definitiva convergevano questi sentimenti e riflessioni antagonistici ridotti alla loro forma più semplice? Soddisfazione per l'ubiquità negli emisferi terrestri orientale e occidentale, in tutte le isole e terre abitabili, esplorate e inesplorate, la terra del sole di mezzanotte, le isole dei Beati, le isole della Grecia, la terra promessa, degli adiposi emisferi anteriori e posteriori femminili, aulenti di latte e miele e del calore di escrezione sanguigna e seminale. Evocanti famiglie secolari di curve di ampiezza, non suscettibili di stati di impressionabilità o di contrasti di espressione, esprimenti una muta, immutabile, matura animalità. Segni visibili della presoddisfazione? Un'erezione prossima, un avvicinamento sollecito, un'elevazione graduale, una rivelazione attentata, una contemplazione tacita. E poi? Egli baciò i tondi, molli, gialli, aulenti meloni del suo sedere, su ciascun tondo melonoso emisfero, nel loro molle solco giallo, con oscura, prolungata, provocante, melona aulente osculazione. Segni visibili di post-soddisfazione? Una contemplazione tacita, una velatura tentata, un abbassamento graduale, un allontanamento sollecito, un'erezione approssimata. Che cosa seguì a quest'azione tacita? Una sonnolenta invocazione, una meno sonnolenta ricognizione, un'incipiente eccitazione, una catechetica interrogazione. Con quali modificazioni rispose il narratore a questa interrogazione? Negative. Omise di menzionare la corrispondenza clandestina tra Martha Clifford e Henry Flower, l'alterco pubblico a dentro e nei pressi del locale autorizzato di Bernard Kiernan e C. SRL 8910 Little Britain Street. L'eccitazione erotica è il risultato di essa, provocata dall'esibizionismo di Gertrude Gerti, cognome sconosciuto. Positive. Incluse la menzione di una rappresentazione con Mrs. Bandman Palmer di Lia al Teatro Gaiety, 46, 47, 48, 49 South King Street. Un invito a cena al Winnis Murphy's Hotel, 35, 36 e 37 Abbey Street Inferiore. Un volume di tendenza pornografico peccaminosa intitolato Dolcezze del peccato e anonimo. Autore un uomo di mondo. Una concussione temporanea causata da un falso calcolo di movimento nel corso di un esercizio ginnico postprandiale. Vittima di essa, in seguito completamente ristabilita, essendo certo Stephen Dedalus, professore e scrittore, figlio maggiore vivente di Simon Dedalus, senza fissa occupazione, una prodezza aeronautica compiuta da lui, il narratore, alla presenza di un testimonio, il professore e scrittore anzidetto, con prontezza di decisione e ginnica flessibilità. Fu la narrazione altrimenti inalterata da modificazioni? Assolutamente. Quale evento o persona emerse come punto saliente della sua narrazione? Steven Dedalus, professore e scrittore. Quali limitazioni di attività e inibizioni di diritti coniugali furono percepite dall'ascoltatrice e dal narratore riguardo a se stessi nel corso di questa intermittente e sempre più laconica narrazione? Da parte dell'ascoltatrice una limitazione di fertilità, in quanto il matrimonio era stato celebrato un mese esatto dopo il 18° anniversario della nascita di lei, 8 settembre 1870, cioè l'8 ottobre, e consumato alla stessa data, con nascita di un neonato di sesso femminile il 15 giugno 1889, essendo stato anticipatamente consumato il 10 settembre dello stesso anno e avendo avuto luogo per l'ultima volta un commercio carnale completo con eiaculazione del seme entro l'organo naturale femminile 5 settimane, cioè il 27 novembre 1893, prima della nascita, 29 dicembre 1893, del secondo e unico maschio genito, deceduto il 9 gennaio 1894 all'età di 11 giorni, rimanendo così un periodo di 10 anni, 5 mesi e 18 giorni, durante i quali vi era stato commercio carnale incompleto, senza eiaculazione del seme entro l'organo naturale femminile. Da parte del narratore, una limitazione di attività mentale e corporale, in quanto un completo commercio mentale tra lui e l'ascoltatrice non aveva avuto luogo dall'apparizione della pubertà, indicata da emorragia catameniale nella figlia del narratore e dell'ascoltatrice, 15 settembre 1903, rimanendo così un periodo di 9 mesi e un giorno, durante il quale, in conseguenza di una naturale prestabilita comprensione nell'incomprensione tra le due femmine fatte, ascoltatrice e figlia, la sua completa libertà d'azione corporale era stata circoscritta. Come? Con varie reiterate interrogazioni femminili concernenti la destinazione maschile verso qual luogo, il luogo in cui, il tempo in cui, la durata per cui, lo scopo per cui, in caso di assenze momentanee, progettate o effettuate. Che cosa si muoveva visibilmente al di sopra dei pensieri invisibili dell'ascoltatrice e del narratore? Il riflesso verso l'alto di una lampada e del suo paralume, un'incostante serie di circoli concentrici di gradazioni varie di luce e ombra. In quali direzioni giacevano l'ascoltatrice e il narratore? Ascoltatrice, est-sud-est. Narratore, ovest-nord-ovest. Al 53° parallelo di latitudine nord e sesto meridiano di longitudine ovest. Ha un angolo di 45 gradi rispetto all'equatore terrestre. In quale stato di riposo o di movimento? In riposo relativamente a se stessi e l'uno all'altro. In movimento essendo ciascuno e ambedue portati verso ovest, rispettivamente in avanti e all'indietro, per il movimento proprio e perpetuo della Terra attraverso i sentieri sempre mutevoli dell'immutabile spazio. In quale positura? Ascoltatrice. Giacente semilateralmente a sinistra, mano sinistra sotto la testa, gamba destra tesa in linea retta e appoggiata alla gamba sinistra, flessa, nell'atteggiamento di Gea Tellus, compiuta, recumbente, piena d'umor seminale. Narratore, giacente lateralmente a sinistra, la gamba destra e la sinistra flesse, il dito indice e pollice della mano destra appoggiati al ponte del naso, nell'atteggiamento raffigurato in una fotografia istantanea fatta da Percy Abjon, l'uomo bimbo stanco, il bimbo uomo nel grembo. Grembo, stanco, riposa, ha viaggiato. Con Simbad il marinaio e Bimbad il bottaio, e Limbad il lattaio e Nimbad il notaio, e Cimbad il cartaio e Gimbad il giostraio, e Timbad il tendaio, e Fimbad il funaio, e Pimbad il pellaio, e Mimbad il sellaio, E qui imbad il guantaio ed imbad il dentaio, e rimbad il rotaio, e vimbad il vinaio, e zimbad lo zampaio. Quando, entrando in letto buio, c'era un quadrato attorno a Simbad il marinaio, uovo d'alca di roc, nella notte del letto di tutte le alche dei roc di Buyombad il lucinaio. Dove?